annunciato a mille vite migliori, un buon finale di partita, un deserto di aria condizionata per te. Ho ancora voglia di bruciare il cielo e farti la guerra e gettarti in mare, spaccarti la faccia e curarti ancora per ogni parola mancata, in ogni volo spezzato, per ogni sentirsi sbagliato, non averci provato. E potrei non volerti più ed avere ogni cosa, invece non ho più niente perché voglio te. Per quanto saremo lontani, io ti vedrò ogni giorno. Per quanto saremo sordi, ti ascolterò ogni giorno. Per quanto saremo lontani, io ti vedrò ogni giorno. Per quanto saremo sordi, ti ascolterò ogni giorno. Saremo sordi.